cercata. Quanti non l'ho ancora fatto? Dov'è che ti nascondi, stella? Guida della mia strada che non ritrovo più. Andrò girando, quanto camminerò disperso per il mondo, nelle cantine di città riposerò, vivendo tra i rifiuti che altri buttano. Tutti dicono che c'è una stella anche per me. Io ci credo, io ci credo. Quanti cercano l'amore, quanti non lo trovano, quanti si perdono per strada, seguendo stelle che poi si spengono. Ma io no, io non sono come gli altri. Io no, io sono nato libero. Io no, senza catene, senza vincoli. Io la mia vita la rispetto, rimango qui. Vecchio, non ce la faccio più, seduto sui miei anni, da qui non mi alzo più. Se vuoi venire, stella, adesso tocca a te. Insegui la mia strada e non ti spegnere, perché io non sono come gli altri. Io no, io sono nato libero. Io no, senza catene, senza vincoli. Io la mia vita la rispetto e aspetto qui. Ti aspetto qui. Tutti dicono che c'è una stella anche per me. Ora ti vedo.